Benvenuti a tutti, puntata numero 22 di NBA Week, la prima riguardante i playoff 2017. Andiamo a visionare quello che è successo serie per serie a partire dal weekend passato, con la fase più interessante della stagione che inevitabilmente si porta con sé numerose storie, curiosità, a volte drammi. Partiamo dalla Western Conference, Portland Trail Blazers contro Golden State Warriors, gara 1 molto interessante all'Oracle Arena. Avevamo detto, con Lillard e McCallum in forma, Portland avrebbe potuto anche vincerne una o due contro una Golden State in fase di rodaggio. Intanto diciamo che se di rodaggio c'era bisogno per i Warriors e per Kevin Durant, questo è già ampiamente superato ed avvenuto con successo. KD infatti esordisce nei playoff in maglia Warriors chiudendo con 32 punti e 10 rimbalzi ed una presenza costante e silenziosa che contribuisce al 121-109 maturato nell'ultima frazione di gioco a vantaggio dei padroni di casa. Del resto, quando hai un McCallum da 41 punti e un Damian Lillard da 34, puoi ampiamente sperare di restare in partita fino a giocartela per Portland. La verità è che c'è un discreto dislivello tra le due squadre, sia a livello d'organico, sia anche a livello di gioco, per cui se da una parte lo sforzo di mantenersi in scia è apprezzabile, dall'altra sembra davvero che bastino due zampate per sfuggire definitivamente ovviamente a favore dei Golden State Warriors. Eppure non è che gli Splash Brothers dominino troppo da dietro l'arco. Curry chiude con 3 su 8 e però 29 punti, Klay Thompson con un inusuale 6 su 16 dal campo e 1 su 6 da 3 punti. Non esattamente la sua serata, chiude con 15 punti. Dalla panchina ci sono 12 punti per Ryan Clark e 6 di un presente Javalone McKee. Ma tecnicamente il migliore in campo risponde al nome di Draymond Green, con la consueta grinta e diciamoci la verità, a volte definibile come una fastidiosa ignoranza. Draymond chiude con 19 punti, 12 rimbalzi, 9 assist e la bellezza di 5 stoppate. Un impatto devastante sul match e sugli avversari. Ancora una volta, quando il gioco si fa duro, squadre come gli Warriors, seppur organizzate per pungere con la classe e la precisione al tiro dei suoi big three, hanno decisamente bisogno di chi nel lavoro sporco ci sguazza quotidianamente. Super Draymond in questo caso questa notte, perché vi ricordo, noi trasmettiamo come al solito, anzi registriamo come al solito il mercoledì pomeriggio. Questa notte ci sarà gara 2. Utah Jazz contro Los Angeles Clippers sapevamo potesse essere potenzialmente serie equilibrata, forse determinata dal vantaggio campo che in volata è stato guadagnato dagli losangelini per la posizione in classifica superiore al photo finish. Ebbene, vantaggio campo già ribaltato dopo gara 1 e anche in questo caso in una volatona finale che lascia il match in bilico fino all'ultimo tiro. Ci pensa un veterano come Joe Johnson, che per i Jazz ne mette 21 dalla panchina e soprattutto il tiro sulla sirena del 97-95 finale, dopo che la palla ha danzato per un bel po' sul ferro. Dai del basket con lui e con Utah, che si presenta all'inizio a pagar dazio con la non presenza all'ultimissimo momento di Rudy Gobert e quindi schierando da subito Boris Dio in quintetto. In realtà ci pensa Derek Favors a sostituire il francese con 15 punti, 6 rimbalzi in 36 minuti di impiego. Gara che si mantiene in grandissimo equilibrio perché i Clippers non mollano, anzi a tratti soprattutto all'inizio conducono. Chris Paul chiude con 25 punti, 11 assist, 26 per Blake Griffin, 10 con 15 rimbalzi per DeAndre Jordan. Statistiche però non sufficienti a mantenere il vantaggio campo e portarsi a casa gara 1. Tutto rimandato a livello di equilibri per gara 2. Stavolta i Clippers la giocano più di forza e se la portano a casa pur non convincendo a livello di superiorità effettiva. Finisce 91-99. In casa Los Angeles ci sono 24 punti di un Blake Griffin che personalmente continua a non convincermi al 100%, seppur solido a livello di contributo effettivo. Anche 21 punti con 10 assist per Chris Paul e soprattutto un super di DeAndre Jordan da 15 punti e 18 rimbalzi, sfruttando l'assenza di Gobert dall'altra parte. I Clippers continuano ad avere un Crawford sottotono con 0 su 5 da dietro l'arco ed un pessimo JJ Redick con 2 su 7 dal campo e 0 su 2 da 3 punti. I Jets vanno sotto 29-18 nel primo quarto e da lì si lasciano amministrare, complice un Gordon Hayward preciso al tiro con 5 su 15 dal campo per comunque 20 punti totali, ottenendo un buon aiuto dalla panchina del solito Joe Johnson con 13 punti ma 0 su 4 da 3. Serie che può dilungarsi fino alla settima, dipende da che Clippers scenderanno in campo nello Utah e come si svolgerà effettivamente gara 3. Tra Grizzlies e Spurs invece serie già incanalata a favore di San Antonio dopo le prime due gare in Texas. Il killer silenzioso di gara 1 è ovviamente un Kawhi Leonard a 32 punti, ben supportati da un Tony Parker da 18 in 22 minuti e da 20 di LaMarcus Aldridge. Dall'altra parte insufficienti per ribaltare gli equilibri i 32 di Marc Gasol. Finisce 111-82 per gli Spurs che di fatto tentano la fuga nel secondo quarto prendendo il largo per i due quarti successivi. Maggior contatto invece in gara 2, ma stesso risultato. Marc Gasol tira male con 12 punti. Il fratello Paul in maglia Spurs un po' meglio a livello di impatto con 10 dalla panchina per San Antonio. Per Memphis meglio Conley che chiude con 4 triple e 24 punti e 12 anche per il veterano Vince Carter. Non basta tutto questo però di fronte a un Kawhi Leonard a 37 punti e 12 rimbalzi, coadiuvato da Anthony Parker con 15 e un Danny Green con 12, 4 triple. Serie piuttosto direzionata in apparenza. Vediamo come Memphis proverà a mantenersi viva andando a giocare le prossime due partite in casa. Certo, se gara 3 finisse a vantaggio degli Spurs è molto probabile lo sweep a questo punto. Memphis sarà pure bipolare, quindi aspettiamoci di tutto, ma San Antonio in queste due gare è apparsa di altra categoria. Contemporaneamente però la tensione nella sponda Grizzlies è palpabile e neanche troppo nascosta. Nella conferenza stampa del post gara 2, coach Fizdale si scaglia senza mezze misure contro l'arbitraggio definendolo pessimo. Il giocatore più grosso in campo, Zach Randolph, non ha tirato neanche un libero, cosa diversa accaduta invece a Kawhi Leonard che ne ha tirati 19, dice coach Fizdale. Ulteriormente nel primo tempo abbiamo tirato per 19 volte in the paint con solo 6 liberi, a differenza di San Antonio che ne ha ottenuti 23 tirando solo 11 volte nel pitturato. Qualcosa non quadra e non può quadrare quando c'è un dislivello simile rispetto ai liberi tentati. Meritiamo di essere trattati in modo diverso. So che Popovic ha un certo riconoscimento della Lega e io al confronto sono un novellino, ma non mi farò fregare. Il pessimo arbitraggio a senso unico ci ha tolto il diritto di restare in partita. Così ha parlato. Vedremo cosa succederà a Memphis dopo una serie di accuse simili. Houston Rockets contro Oklahoma City Thunder, partitone della domenica pieno di spunti curiosi ed interessanti. Innegabile il primo, la sfida personale tra Westbrook e James Harden. Indubbiamente anche da vedere la reazione dei Rockets al primo match di playoff dopo una regular season spaziale. Promossa a pieni voti la squadra di D'Antoni e super super schiacciante vittoria personale per Harden su Westbrook. OKC mostra tutti i limiti riconosciuti e visionati a livello di organico durante la regular season, seppur resti in partita un po' di più rispetto a quanto non lascia intendere il 118-87 finale per i Rockets. In casa Thunders, Westbrook non gioca esattamente un partitone. La prima statistica da sottolineare sono le 9 palle perse, la seconda un pessimo 6 su 23 dal campo con 3 su 11 da dietro l'arco. Chiude comunque inevitabilmente con 22 punti, 11 rimbalzi e 7 assist, ma la sua prestazione soccombe nel parallelo rispetto a quella di un Harden da 37 punti e 9 assist, killer della partita con i canestri che ribadiscono gli allunghi decisivi nella seconda frazione di gioco. Per OKC 4 su 6 da 3 punti per un buon Andre Robertson da 18 punti totali. Ancora pessimo Oladipo con 1 su 12 dal campo e 0 su 6 da 3 punti. Dall'altra parte Houston è nettamente più squadra e sicuramente più carica. Partita spaziale per un grintoso Patrick Beverley da 21 punti e 10 rimbalzi e conseguenziale partita di routine senza incidere troppo per i tiratori Ariza, Lou Williams e Harry Gordon che chiudono con un 2 su 9 da 3 punti complessivo per tutti e tre. Lavorone sotto canestro invece per Capela e Nene che chiudono rispettivamente con 14 e 15 punti e con un 14 su 17 dal campo complessivo per entrambi. Houston tira meglio, quasi il 50% dal campo contro appena il 37% dei Thunders. Vediamo come si presentano Westbrook e compagni in gara 2 per capire meglio se questa serie avrà un futuro allungato oppure se Houston può amministrarla già da gara 3. Vero che con le fiammate solite di Westbrook mai niente è perduto, ma indubbiamente come previsto, tolte le due stelle da entrambe le parti, abbiamo una squadra con mire potenzialmente elevate che è Houston e dall'altra una squadra con un pessimo supporting cast alla sua star Russell Westbrook. Eastern Conference, è qui che nel primo weekend abbiamo visto le sorprese più interessanti e per questo le partite più belle. Partiamo dalla serie che riguarda i campioni in carica, Cleveland Cavaliers contro Indiana Pacers. Sapevamo che Indiana potesse essere un cliente non certo simpatico per Ray James e compagnia, tuttavia se non con qualche difficoltà, i Cavaliers hanno sfruttato appieno le due partite casalinghe portandosi sul 2-0, un 2-0 che fa piuttosto ben sperare anche se adesso c'è da andare ovviamente a giocarsela a Indiana. Gara 1 si chiude in volata e non senza insidie per Cleveland, che vince 109-108, con i Pacers si rimonta nell'ultimo parziale. Lo stesso avviene anche in gara 2, con l'ultimo quarto in cui gli avversari rosicchiano punti al vantaggio dei Cavs, difetto visto ampiamente anche nella parte finale di stagione. Vale sempre lo stesso discorso, Cleveland sembra tendere ad amministrare i vantaggi, magari non lo fa benissimo, ma comunque c'è la sensazione che ad ora giochi con il risparmio energetico attivato. Vedremo più avanti quanto tutto ciò può essere vero, oppure questa apparente certezza non nasconda limiti di squadra che alla lunga potrebbero creare problemi. Intanto, il non aver pescato i Bulls arrivando secondi in conference, visti i primi risultati di playoff, può essere stato o casualità o intelligentissima programmazione per Cleveland, ma andiamo con ordine. Dicevamo gara 1, Lance Stephenson is back in Indiana e si fa ampiamente vedere con 16 punti partendo dalla panchina. Super Paul George con 6 su 8 da 3 punti e 29 punti totali. Spreciso dal campo Jeff Teague con un 3 su 10 finale. Indiana tiene a lungo malgrado una super prova di LeBron con 32 punti e 13 rimbalzi. Un Kyrie Irving da 23 punti seppur con solo un canestro su 9 tentati da 3 punti. Il granitico contributo soprattutto al rimbalzo di Tristan Thompson con 13 rimbalzi e 8 punti. E un'ottima partita per il terzo violino Kevin Love. Onesta prestazione da 17 punti. Tyronn Lue usa soltanto 4 panchinari, tra cui spicca il 3 su 4 a 3 punti di Channing Frye. Indiana parte meglio in gara 2, o forse Cleveland parte peggio. Tuttavia si rimette subito in carreggiata, con un Kyrie Irving che chiuderà con 37 punti ed un super LeBron James che quando carbura favorisce i soliti parziali di vantaggio. James chiude con 25 punti, 10 rimbalzi, 7 assist e 4 recuperi, ma è importante per scappare anche l'apporto di un Imam Shumpert che sostituisce un J.R. Smith che si infortuna a inizio partita. E soprattutto la grande prova di un Kevin Love da 27 punti e 11 rimbalzi. Cleveland sfugge nel terzo periodo per farsi poi rimontare nell'ultimo quarto, con Indiana che rientra fino a meno 5. 32 punti, 8 rimbalzi e 7 assist per Paul George. 23 per un Jeff Teague, stavolta da 8 su 12 dal campo. Altra prova gagliarda per Lance Stephenson con 13 punti. Non sarà facile andare ad Indiana per Cleveland, almeno che, come è accaduto lo scorso anno, non si scatenino in una gara 3 da superiorità manifesta, chiudendo i giochi. Ad ora sembrano esserci possibilità per i Pacers di provare quantomeno ad allungare la serie, per quanto visto in campo. Toronto Raptors contro Milwaukee Bucks. Primo vero sorpresone della prima notte di partite playoff. Un autentico schiaffo firmato da una prestazione spettacolare del greco Giannis Antetokounmpo. Toronto è solita avviare i playoff con impreviste sconfitte, ma stavolta era raro prevedere un tonfo in casa simile. Il greco chiude con 28 punti e 8 rimbalzi, ma a tratti è imbarazzante il suo provare e riuscire a fare quello che apparentemente vuole, soprattutto in penetrazione, magari chiudendo in schiacciata. Attorno a lui, Malcolm Brogdon, il rookie, fa ampiamente il suo dovere con 16 punti, mentre dalla panchina è fondamentale l'apporto di Greg Monroe, 14 punti e 15 rimbalzi, e la solita grinta di Matthew Dellavedova. Toronto tira con il 36% dal campo ed il 21% da 3 punti, e la sorpresona del 97-83 finale per i Bucks si concretizza malgrado i 27 di DeRozan, che comunque tira con un pessimo 7 su 21, e i 19 con 14 punti per un Serge Ibaka migliore in campo tra i suoi. Bucks sorprendenti, ma fondamentale gara 2 per capire il probabile andazzo della serie. L'autentico crocevia quindi si risolve nella notte del 18 aprile, con la serie rimessa in equilibrio da Toronto vincente 106-100. Milwaukee sta ampiamente in partita e si piega solo nel finale grazie al solito super Giannis da 24 punti, 15 rimbalzi e 7 assist, e una bella prestazione di Chris Middleton con 20 punti e 18 in 22 minuti per Greg Monroe dalla panchina. Per Toronto stavolta si risveglia Kyle Lowry, che chiude con 22 punti e la tripla decisiva a una manciata di secondi dalla fine, coadiuvato dai 23 di DeRozan. Solita e granitica prestazione per un Ibaka da 16 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, doppia doppia da 10-10 in materia di punti e rimbalzi per Valanciunas, tutto rimandato anche qui a gara 3 a Milwaukee, dove capiremo che tipo di Toronto Raptors aspettarsi effettivamente in questi playoff. Boston Celtics contro Chicago Bulls. Gara 1 tra queste due squadre è quella che maggiormente racchiude il numero più intenso di temi di questo avvio di postseason. La triste storia da cui partire a raccontarla è quella del leader della squadra con il miglior record della Eastern, il franchise player Isaiah Thomas. È la vigilia di gara 1 e la sorella del playmaker dei Celtics, Gina Thomas, 22 anni, perde la vita in un incidente stradale nei pressi di Seattle. Più o meno contemporaneamente, a chilometri di distanza, Isaiah Thomas sta parlando con un commentatore nel corso della sessione dedicata ai media dopo l'allenamento dei Boston Celtics. Ad un certo punto il compagno Avery Bradley, il miglior amico di Isaiah Thomas nello spogliatoio anche per via delle origini comuni provenienti dalla zona di Seattle, arriva a passo sostenuto, prende sotto braccio il compagno di squadra e interrompe l'intervista. Thomas e Bradley imboccano il tunnel degli spogliatoi e da qui non ricompariranno più. All'arrivo negli spogliatoi Isaiah riceve la tremenda notizia, un dramma pazzesco avvenuto alle 5 di mattina, orario dello stato di Washington ovviamente, con la giovane sorellina che pare aver perso il controllo del proprio mezzo schiantandosi contro un palo della luce senza la cintura di sicurezza allacciata, almeno a quello che viene riportato. Tragedia immane per il giocatore, al quale la dirigenza dei Celtics lascia decidere se ovviamente saltare l'imminente gara di avvio della postseason per volare accanto ai suoi familiari. Nonostante l'evidentissimo stato di shock in cui versa, Thomas decide comunque di scendere in campo per la sfida contro i Bulls. È visibilmente instabile, commosso, con gli occhi a tratti lucidi e la faccia di chi a stento cerca di trattenere le lacrime. Si concentra però in campo ed il suo primo canestro, tra l'altro una tripla non facilissima, piuttosto distante anche dalla linea dei tre punti, il TD Garden esplode come raramente lo si è sentito. sentito ultimamente. Chiuderà eroicamente con 33 punti, 10 su 18 dal campo, aggiungendo anche 5 rimbalzi e 6 assist e rappresentando da leader i suoi per 38 minuti. La partita però non è facile e soprattutto non è agile affrontare i Chicago Bulls di Jimmy Butler, affiancato da quei due vecchi volponi che rispondono al nome di Dwayne Wade e Rajon Rondo, due che nei playoff qualche partitina importante in passato l'avrebbero anche giocata. Chicago si presenta al TD Garden come ultima qualificata del tabellone ad est, ma non mostra assolutamente differenze o divari insormontabili rispetto ai numeri uno dei Celtics, che a prescindere dal dramma capitato a Thomas, si presentano in campo con una leggerissima pressione e qualche aspettativa di troppo da confermare immediatamente. Le due squadre si fronteggiano in modo paritario, con un primo quarto a vantaggio di Boston, al quale consegue un secondo quarto chiuso in positivo per i Bulls. Il divario si scava da solo quasi naturalmente e anche impercettibilmente nel quarto periodo, con i Bulls che allungano ed i Celtics che si lasciano sfuggire la partita di mano quasi in modo arrendevole, per poi riuscire nelle ultimissime azioni proprio con Thomas a rientrare quando tendenzialmente però non c'è più tempo. Finisce a sorpresa 106 a 102 per i Thunder dell'Illinois e la serie si fa ora potenzialmente bellissima e incerta. 19 punti, 7 rimbalzi e 8 assist per Al Horford dei Celtics, 4 triple e 14 punti per Avery Bradley, 3 triple dalla panchina per Marcus Smart non bastano però contro Jimmy Butler stellare da 30 punti e 9 rimbalzi, intorno a lui impeccabile supporting cast con un redivivo Rajon Rondo da 12 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, un immortale Dwayne Wade da 11 punti, 5 rimbalzi e 6 assist e soprattutto presenza gigantesca quando si decide il match, un Robin Lopez da 14 punti, 11 rimbalzi, 19 punti con 8 su 10 per un decisivo Bobby Portis dalla panchina per Chicago. Digerita la sorpresona, subito in campo per il rematch, gara 2 nella notte del 18 aprile. Altra gara di sorprese e tensioni. La prima sorpresa, quella più importante, è che Chicago si porta sul 2-0 vincendo 111-97. Clamorosa e inaspettata resurrezione di giocatori imprevisti vista la stagione irregolare disputata. Notte fonda per Boston, che con il suo piccolo condottiero in campo tira malissimo da 3 punti e in particolare lo fa nel quarto periodo, non riuscendo mai a riprendere Chicago. 10 su 33 da dietro l'arco per i Celtics, disastrosi negli ultimi 12 minuti in cui Chicago risponde segnando canestri pazzeschi, soprattutto con un Dwayne Wade immortale. È però la partita di Rajon Rondo, il vero risorto della situazione. Contro la sua ex squadra storica chiude stavolta un passo dalla tripla doppia, chiude con 11 punti, 14 assist, 9 rimbalzi, 5 recuperi ed ecco il giocatore tanto atteso dall'inizio della stagione di Illinois. Accanto a lui 22 punti del già detto Wade con 3 su 4 da 3 punti e i canestri che uccidono definitivamente Boston. 22 con 8 rimbalzi e 8 assist per il leader effettivo della squadra, la superstar che risponde al nome di Jimmy Butler. A suo fianco clamoroso esordio playoff con 16 punti dalla panchina per Paul Zipster. 18 con 8 rimbalzi di un tremendo Robin Lopez e 13 anche per Mirotic. Insomma, meritatissima vittoria Bulls che clamorosamente si portano sul 2-0 con il vantaggio campo acquisito e la prospettiva di giocare le prossime gare in casa allo United Center. Boston probabilmente scossa da tutto il disgraziato contorno, soppressa dalle aspettative generali, adesso è messa veramente male, messa quasi con le spalle al muro, soprattutto per gara 3. Considerando anche che il calvario mentale per Isaiah Thomas non è certo finito qui e che tutto il supporting cast sembra soffrire il sistema creatosi intorno alla stella della squadra, che comunque in gara 2 ha chiuso con 20 punti e 6 su 15 dal campo. Fuori partita ad esempio in gara 2 all'Horford, al quale è necessario aspettarsi qualcosa di più, e a tratti anche Avery Bradley, che ha chiuso gara 2 con 2 su 8 da 3 punti. Serie veramente interessante, potenziale upset effettivo per i Chicago Bulls. Staremo a vedere, gara 3 sarà veramente decisiva. Sul 3-0 per i Bulls, per Boston potrebbe essere finita. Chiudiamo alla fine con l'ultima serie est, gara 1 tra Washington Wizards e Atlanta Hawks. Gara 2 si giocherà stanotte. 114-107 il finale per i Wizards e un autentico show per John Wall. 12 su 24 dal campo per 32 punti e 14 assist. Intorno a lui 22 punti per Bradley Beal, 14 con 10 rimbalzi per Gortat, 21 per Markieff Morris. Dall'altra parte non bastano i 25 di Schroeder, i 14 rimbalzi con soli 7 punti per Dwight Howard, i 19 per Paul Millsap. Con Wall infuocato in questo modo, difficile per Atlanta sperare di passare il turno, anche se comunque la serie è inevitabilmente potenzialmente lunghissima e ovviamente ancora imprevedibile. Staremo a vedere, come vedete sono già iniziate le sorprese, i grandi giocatori stanno più o meno tutti rispondendo presente, quindi la tavola è imbandita e si prospetta veramente una splendida edizione dei playoff. Auguriamoci che possa andare avanti così. continueremo a raccontarli tutti i giovedì sera nel flusso streaming di Radio Big World. Contemporaneamente potrete ascoltarci nel nostro podcast sul SoundCloud di Radio Big World, attraverso il nostro blog medium.com/NBA Week e attraverso la nostra pagina Facebook NBA Week. Grazie ancora per l'ascolto, ci sentiamo la settimana prossima con la seconda puntata sui playoff NBA 2017.